Perfetto Mondo. One of the key phrases the president used, and I think if I was in Beijing, I'd be very nervous right now. He said, knowingly responsible, knowingly responsible. And I think, let's set aside for a second, this is a biological Chernobyl. Ed eccoci qua con la voce di Steve Bannon, consigliere di Donald Trump. Giulia Crivelli, ciao, buongiorno. Sì, buongiorno. È stato molto duro, è stato intervistato perché Donald Trump in una lunga conferenza stampa trasmessa da tutte le TV ha ribadito le sue accuse durissime alla Cina, ha detto di essere in possesso delle prove e Steve Bannon ha parlato proprio di una Chernobyl di carattere biologico e ha detto che le due parole chiave usate da Donald Trump sono knowingly responsible, cioè responsabile, diremmo, possiamo dire con dolo, cioè sapendo quello che stavano facendo. Giulia, questa storia del virus, però che prove portano? Cosa dice la stampa? Perché senza voler difendere la Cina, però questa storia sta andando avanti da un po', sono accuse molto pesanti, ma ci vogliono anche delle dimostrazioni, in qualche modo delle evidenze, delle prove, delle tracce, perché sennò di che stiamo parlando? Sì, infatti il Washington Post per esempio titola il virus di nuovo riapre la guerra con la Cina e sappiamo che prima che scoppiasse la pandemia, prima che l'OMS la dichiarasse una pandemia e che quindi oltre alla Cina fossimo colpiti tutti, la guerra commerciale sembrava aver trovato una qualche tregua tra Stati Uniti e Cina e tra l'altro molti comparti negli Stati Uniti, a cominciare dagli agricoltori che sono stati uno dei tanti tipi di elettori che hanno fornito a Trump molti voti nelle ultime elezioni, avevano cominciato a sentire il peso di questa guerra commerciale, della mancanza di Cina della Cina come sbocco o comunque dei dazi, dei controdazi. Quindi questo riapre tutto, è naturalmente è anche una mossa in vista della campagna elettorale. Il New York Times e anche il Wall Street Journal dicono adesso forse bisognerebbe che Biden e diciamo in generale il team dei democratici dicesse la sua, perché sennò Trump ha, diciamo, anche gioco facile di fronte alla tragedia sanitaria a trovare un colpevole. Insomma, è un meccanismo conosciuto, usato, ma che comunque ha la sua efficacia. Ci fai sentire anche la voce di Pompeo? Sì, perché Pompeo, il segretario di Stato, cioè l'equivalente del ministro degli esteri, a sua volta ha sparato a zero, dicendo anche lui di essere in possesso ormai delle prove, della pistola fumante, potremmo dire. E alla domanda della giornalista, che in questo caso era della ABC, quindi diciamo meno friendly di Fox, alla domanda, ma questi documenti ce li farete vedere? Li abbiamo, li faremo vedere appena possibile. Sentiamo Pompeo. Sentiamo. Martha, you've got the facts just about right. Confirm that the Chinese Communist Party did all that it could to make sure that the world didn't learn in a timely fashion. Che dice? Qui se vuoi l'accusa è doppia. Da una parte Donald Trump che dice sono sicuro che il virus sia venuto fuori da un laboratorio e Pompeo che insiste, il Chinese Communist Party negli altri parti delle dichiarazioni dice come del resto ha sempre fatto il Partito Comunista e qualsiasi Partito Comunista, ha mentito sull'entità del problema, ci ha dato le informazioni troppo tardi, insomma sono come dicevi tu, le abbiamo già sentite queste cose, però a così stretta distanza e praticamente in parallelo e con una certa coerenza delle accuse da personaggi, oltre naturalmente a Trump, come Pompeo e Bannon, fa capire che l'offensiva è ripartita alla grande contro la Cina. Tanto che Bannon dice, fossi a Pechino in questo momento avrei paura. Va bene. Giusto una veloce risposta a un paio di ascoltatori che scrivono... io ho detto senza voler difendere la Cina, ma intanto difendiamola e ci accusano non ripeto l'espressione, ma insomma di fare schifo, ecco, da questo punto di vista moralmente. Però non è la prima volta, ricordiamoci le famose armi di distruzione di massa, l'Iraq, Colin Powell, prove che non sono mai arrivate. Può darsi che loro abbiano motivo di crederlo, pur non avendo delle prove a disposizione, altrimenti l'accusa è pesante, le prove sono in qualche modo necessarie, perché sennò, ripeto, di che stiamo parlando? Sì, anche perché Trump, e tra l'altro anche su questo sì. Riferiscono i giornali americani, Trump anche ha detto che è tutta colpa di Biden, perché durante l'amministrazione Obama era lui che teneva i rapporti con la Cina, ma che in realtà la colpa è di tutte le amministrazioni precedenti che hanno lasciato che la Cina facesse quello che voleva e che, ha anche aggiunto Trump, in realtà la Cina non vuole che io sia rieletto. E anche questo è, per tornare a quello che dicevo prima, ci ributta nella campagna elettorale. Sì, sa molto anche, sì, esatto, di uso e consumo di Trump, di questa situazione, il che però non sarebbe francamente ammissibile. Veniamo in Europa, Giulia? Sì, volevo, per collegarci, proprio per fare un ponte, ti cito un articolo del Los Angeles Times che mi ha fatto molto effetto, perché molte delle case di cura per anziani, delle case di riposo per anziani, accolgono anche pazienti che hanno il programma Medicaid o Medicare, che è quel tipo di assicurazione minima che molti americani hanno, privata comunque. Per gli standard che pagano, le cure da Covid e i costi che le strutture devono adesso sostenere per creare dei reparti ad hoc non vengono più coperti. E quindi il Los Angeles Times spiega: molto presto questi pazienti verranno espulsi, quelli che hanno solo la copertura Medicare, Medicaid, e si farà invece spazio a tutti quelli più ricchi che possono pagare le tariffe riviste al rialzo. Perché non pensiate nessuno che negli Stati Uniti esistono delle case di cura, come esistono anche qua a Milano, con tutti i difetti possibili, pubbliche, che possono accogliere anche persone che non hanno bisogno di pagare 3.000, 4.000, 5.000 euro di retta al mese, perché negli Stati Uniti non è così, quindi si finisce in mezzo a una strada o dimenticati magari in una piccola casa dove si muore soli. Ecco. Senti, Macron, che era stato il paladino delle riaperture, no? L'11 maggio, l'ha anticipato, è stato tra i primi a dirlo, adesso mi segnali che sulla stampa si evidenzia che ci sta ripensando in qualche modo. Il titolo di Le Figaro è proprio: ma la Francia sarà veramente deconfinata l'11 maggio? Perché il tema è che i dati evidentemente in possesso di Emmanuel Macron e anche del primo ministro e del governo cominciano a far nascere qualche dubbio. Si parla anche in Francia dell'apertura della riapertura delle chiese, nel senso messe in presenza di pubblico. C'è una grande foto in prima pagina, perché anche le librerie e gli editori palpitano per riaprire, perché insomma tutti si sono industriati per consegne a domicilio, sportelli dove si può raccogliere quello che si è ordinato via internet, però non è la stessa cosa. E il tema invece, per restare in Europa ma spostarci in Germania, dicevo, fare un po' un ponte con gli Stati Uniti, la FAZ, la Frankfurt Allgemeine, ospita una lunga e bellissima intervista con il presidente del Nord Reno-Vestfalia, che è un land con un tasso di con dei numeri, diciamo, leggermente migliori rispetto alla media della Germania, e lui vuole proprio riaprire alla possibilità che i parenti facciano visita alle persone che sono nelle residenze per anziani. Questo è un tema molto sentito in Germania, perché si è riuscito a contenere il numero di morti e contagi, però barricando di fatto all'interno di queste strutture non solo gli ospiti ma anche molta parte del personale, e questa è una delle cose che potrebbe essere differenziata da land a land. Crescono, e qui veramente ci suona familiare, le proteste appunto dei vari responsabili dei vari lender, che dicono: adesso basta però con queste decisioni centralizzate, che chi è più critico con Angela Merkel dice in fondo la stanno solo portando a un quinto cancellierato, e chi invece semplicemente fa appello ai dati, cita i dati, dice: è giusto che ognuno su molte cose come le scuole e le celebrazioni religiose faccia le sue scelte. E tra l'altro il Tagesspiegel ha in prima pagina proprio la foto di una messa, e quel famoso plexiglass viene usato anche per dividere il parroco che consegna, l'ostia ai fedeli, certo. Quindi insomma ognuno deve, anche le chiese devono adottare, riorganizzarsi, le loro misure di sicurezza. Abbiamo pochi secondi, in Spagna che succede però? In Spagna, anche qua, come avete visto, insomma, tante foto anche su internet, anche il País pubblica una foto con scritto Vamos, sapete che gli spagnoli mettono il punto esclamativo rovesciato all'inizio e alla fine, quindi tante persone in giro, però si profila, questo lo dice Il Mundo, che è un quotidiano molto molto con il governo Sanchez, che si profilano centinaia di cause di persone, di studi, di aziende che faranno causa al governo per la mala gestione dell'emergenza che ha portato non solo a tantissimi decessi, ma anche a danni economici incalcolabili. Grazie Giulia, è tutto per la puntata di oggi, ci risentiamo domani naturalmente, è tutto con Peter Bescapè in regia, Danilo Di Trani in assistenza, Jacopo De Franchi in redazione, da Alessio Maurizi l'auguro di una buona giornata, ciao!